2. Quando sono proprio giù di morale, vado in un bar che si chiama Apocalipso. È un bar polisemico, transdiversale e interclassista. Fino a mezzanotte ci vanno quelli che dopo vanno in un altro posto. Dopo mezzanotte ci vanno quelli che non hanno un altro posto dove andare. Dopo le 4 ci vanno quelli che non sanno nemmeno più in che posto sono. Il barista si chiama Galles perché ha preso tante bottigliate in faccia che ha ridotto a quadri e losanghe. Lo potrebbero usare come bersaglio per le freccette, anzi qualche volta lo fanno. La sua specialità sono i cocktail. Mette insieme dei ceffi di liquori e ne fa un ottimo equipaggio. I suoi cocktail leggendari sono Anagrafe, Rappresaglia e Me ne dai un al. Anagrafe è cosiddetto perché se ne bevi più di due, dopo devi andare all'anagrafe per sapere chi sei. Rappresaglia sono 20 parti di grappa italiana per una di grappa tedesca. Poi c'è il Me ne dai un al. Favoloso. Dopo averlo bevuto, ti viene sempre voglia di fare il bis. Allora chiedi appunto, me ne da un al... Ma nessuno ha mai finito la frase. Si schianta a terra prima. Quando arrivo io, c'è un'allegra brigata di gerarchetti e clarette, che stanno per andare a una qualche premiere. I gerarchetti sono clarcopodi, fumano cigarilli snelli e hanno giacche con spallone anabolizzate. Le clarette hanno pantaloni di già guardami e ti graffierei, aderenti ma aderenti, che quando si siedono uno si aspetta che suoni l'allarme. Stanno lì, ridendo in posa come un set di spot di Brut. I gerarchetti parlano dell'argomento del giorno, che sta per scadere a mezzanotte. Le clarette pispillano della nuova divisa della polizia disegnata da Jean-Paul Charrier, col basco stile rapper e un mitra mignon molto sexy, color muschio. Dalla strada arrivano duelli di clacson e sirene della polizia, l'orchestra di mezzanotte che accorda gli strumenti. La voce di un prete pazzo urla minacce cosmico-grame. Perché sono qui, stanotte, solo e triste a 10 anni dal 2000? Perché sono un soldato, e dietro ogni soldato c'è una donna.